506. Baccalà alla Fiorentina. Il baccalà appartiene alle famiglie delle Gardidee, il cui tipo è il merluzzo. Le specie più comuni dei nostri mari sono il Gadus minutus, il Merlucius esculentus o nasello, pesce alquanto insipido, ma di facile digestione per la leggerezza delle sue carni, è indicato ai convalescenti, specialmente se lesso e condito con olio e agro di limone. Il genere Gadus morrua è il merluzzo delle regioni artiche ed antartiche, il quale, dalla diversa maniera di acconciarlo, prende il nome di baccalà o stoccafisso e, come ognuno sa, è dal fegato di questo pesce che si estrae l'olio usato in medicina. La pesca del medesimo si fa all'amo e un solo uomo ne prende in un giorno fino a 500 ed è forse il più fecondo tra i pesci, essendosi in un solo individuo contate 9 milioni di uova. In commercio si conoscono più comunemente due qualità di baccalari, Gaspi e Labrador. La prima proveniente dalla Gaspesia, ossia dai banchi di Terranova, ove si pescano ogni anno più di 100 milioni di chilogrammi di merluzzi. È secca, tigliosa e regge molto alla macerazione. La seconda, che si pesca sulle coste del Labrador, forse a motivo di un pascolo più copioso, essendo grassa e tenera, rammollisce con facilità ed è assai migliore al gusto. Il baccalà di Firenze gode buona reputazione e si può dir meritata perché si sa macerar bene, nettandolo spesso con un granatino di scopa, e perché essendo Labrador di prima qualità, quello che preferibilmente vi si consuma, grasso di sua natura, è anche tenero, tenuto conto della fibra tigliosa di questo pesce, non confacente agli stomachi deboli, perciò io non l'ho potuto mai digerire. Questo salume supplisce su quel mercato nei giorni magri con molto vantaggio il pesce, che è insufficiente al consumo, caro di prezzo e spesso non fresco. Tagliate il baccalà a pezzi larghi quanto la palma della mano e infarinatelo bene. Poi mettete un tegame o una teglia al fuoco con parecchio olio e due o tre spicchi d'aglio interi, ma un po' schiacciati. Quando questi cominciano a prender colore, buttate giù il baccalà e fatelo rosolare da ambedue le parti, rimuovendolo spesso affinché non si attacchi. Sale non ne occorre, o almeno ben poco, previo l'assaggio, ma una presa di pepe non ci fa male. Per ultimo, versategli sopra qualche cucchiaiata di sugo di pomodoro numero 6 o conserva diluita nell'acqua, fatelo bollire ancora un poco e servitelo. 507. Baccalà alla bolognese. Tagliatelo a pezzi grossi come il precedente e così nudo e crudo mettetelo in un tegame o in una teglia unta con l'olio. Fioritelo di sopra con un battutino di aglio e prezzemolo e conditelo con qualche presa di pepe, olio e pezzetti di burro. Fatelo cuocere a fuoco ardente e voltatelo ad agio perché, non essendo stato infarinato, facilmente si rompe. Quando è cotto, strizzategli sopra del limone e mandatelo al suo destino.